Mondays. Vabbè, più o meno più così, meno. No? Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Che bello lunedì bello. Dopo i morti, dopo tutte quelle cose tutti tristi. I disastri adesso delle novembre passate, sorride sì. E splende con un cielo azzurro che ispira vita e gioia. Vita, morte e miracoli. Miracoli zero, miracoli economici soprattutto zero. Vabbè, se qualcuno si chiedesse che cosa state ascoltando, esatto. Cosa stiamo ascoltando? State ascoltando Chiedo Asilo, che lo ricordiamo per quelli veramente distratti, quelli che anche dopo un anno e mezzo di martellamento quotidiano non hanno ancora capito che alle 16.45 Radio 24 si prende un attimo di pausa e si trasforma in un asilo infantile. Allora, Chiedo Asilo, dicevamo, è un programma in cui vengono messi in evidenza i comportamenti infantili ormai dominanti nel mondo degli adulti italiani. Sì, però che palle, Drago. Cos'è tutta sta roba? Gli adulti. Ma tu dovresti essere esempio di infantilismo, non sta lì a spiegare, noi no? Noi due infatti lo siamo. Allora, tutto chiaro? Speriamo. Bambinate ultimamente ce ne sono state così tante in giro che fatalmente se ne lasciano indietro delle dozzine, tipo la convention del Big Bang del PD, indetta dal bambino Matteo Renzi nell'ultimo weekend di ottobre. Bella quella. Io delle volte quando sento parlare autorevolissimi amici del nostro partito mi sembra di ricordare sempre una scena di un film noto. Mi mandi Franco il film Non ci resta che piangere. Allora, mo ce lo segniamo. Ma ce lo segniamo, abbiamo capito. Quella lì è stato il trionfo praticamente del bimbo power. Tutta un'esaltazione della gioventù. Ma che ci mancava ancora che si mettessero a cantare tutti insieme Giovinezza. Ma giovinezza, no, giovinezza però tutti di sinistra. Di ma chi di sinistra? I rottamatori, no? Vabbè, là, Big Bang. Fatto, noi non ci giurerei che fossero di sinistra, visto che lo stesso Renzi, ricordiamo, è andato a cena da Berlusconi. Quello lì è la macchia. Ma cosa vuol che dire? Non si toglierà ma mai io più. Io sono stato a cena da Berlusconi. Ho capito, lo sappiamo, lo sappiamo. Hai voluto svelare questo arcano, questo segreto, no, però arcano. Tu insomma non ti sei trattenuto tanto. Invece Renzi è andato lì a parlare, quindi quella è la macchia che non si toglierà mai dalla coscienza. Vabbè, comunque, scusa. Renzi non fa altro che dire destra e sinistra sono categorie vecchie. Sì, ma... E lui lo sai che quando vede qualcosa di vecchio si incazza di brutto, no? Ma allora, Max, cosa? E allora? E allora cosa? E allora? Ma non ci va mai bene a nessuno. Siamo qui a rompere il capello in quattro. Scusami, lasciali fare, no? Renzi ci prova. Prima di analizzare quello che fa, lascia che faccia qualcosa. No, è vero che è stato fatto così, niente. È stato subito martellato e picchiato da tutti senza che poverino, nessuno abbia mai... Lui ha cominciato come concorrente di quiz, Quindi è andato bene. Aveva vinto. Non vabbè, comunque io ti dico solo che lì lui ha fatto il gioco dei 5 minuti da premier. Che sia una cosa seria, insomma, lo pensa solo lui. Ma perché? Ma ti sembra una roba seria da partito serio, persona seria, programma serio? Fai finta di essere il presidente del consiglio per 5 minuti e raccontami le tue fantasie. Fai girare le idee così, no? Ma voglio dire, ma tu chiedi a uno qualsiasi cosa faresti se fossi il presidente del consiglio? A 5 minuti per spiegarlo, quello te lo spiega e tu in quel modo hai un'idea valida per il programma di un partito serio. Mica ho capito bene come funziona. Ma guarda, che a volte i suggerimenti dal basso sono miracolosi, bisogna starli ad ascoltare, se no sono sempre le stesse idee che girano. Vabbè, ho capito, ma pensa al grado di infantilismo anche creativo che sta alla base di un'idea come hai 5 minuti per dirmi cosa faresti se fossi il presidente del consiglio. 5 libri da portare sull'isola deserta, stessa roba. Che poi sai che se lo chiedono a Renzi lui non lo sa. Ma come? Lui non ha idea di che cosa farebbe se fosse il presidente del consiglio. L'ha già detto, lui alle primarie da leader del centro-sinistra può anche darsi che non funzioni, può anche darsi che non si presenti, anzi lui andrebbe bene anche fare il numero 2 dietro qualcuno. Il numero 1 chi è? A questo punto siamo a 3 candidati quasi sicuri che sono Bersani, Vendola e Di Pietro. Ah, anche Di Pietro candidato? Sì, anzi lui è uno dei più convinti, sembra, perché poi cambia idea. Ma si parla di centro-sinistra, cosa c'entra Di Pietro? Ma come cosa c'entra Di Pietro? Ma Di Pietro è un ex poliziotto, è un ex giudice. Giusto, sì. Ma siamo sicuri che è di centro-sinistra? Ma quello bisognerebbe chiederlo a lui. Secondo me non risponderebbe in modo molto chiaro. Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui per muore di fame. E ora, bambini, ricreazione! Bambino Alberto, se tu fossi il capo assoluto dell'asilo, che cosa faresti? Dai, hai 3 minuti per dirlo, dai. Allora, dai. Ma cos'è, un gioco cretino? Ma no, no, sono le idee del bambino Renzi per salvare l'Italia. Ma no, niente. Dai, tu rispondi a sto gioco. Ma il capo dell'asilo in che senso? Nel senso che puoi fare quello che vuoi e quello che vuoi diventa la legge. La legge? Vabbè, allora è facile. Dai. La prima cosa che faccio è abolire la mensa. Cioè, ma non in assoluto, così come concepita. La trasformo in un grande fast food, no? Moderno. Dove si servono proprio a getto continuo, hamburger, cheeseburger, patatine, pizza al trancio, quella alta, doppia mozzarella. Pizza al trancio quale? Quella doppia mozzarella. Casa di bufala. Vabbè, questo potevamo anche aspettarcelo, Drago, subito Finocchico, mangiare. Decidere, sì. Però devi, bambino Alberto, devi anche pensare che il fatto che tu decidi qualsiasi cosa che riguardi l'asilo ha delle conseguenze, capito? Come in un gioco di ruolo, come Dungeons and Dragons. E quindi se tu smantelli la mensa e piazzi un bel fast food, ci saranno le proteste dei genitori, no? Le associazioni contro l'obesità che si lamentano perché i grassi viene fuori un terremoto, insaturi, le patatine. Piano, allora dovete dirmelo prima che questo qui era, cioè, che non era un gioco così tanto per fare. No, è un gioco che sta diventando complicato. Certo. Perché se devo fare piacere a tutti. Allora devo passare un'altra. Devo escogitare qualcos'altro. Essere a capo di qualcosa significa proprio dover pensare a tutto, anche agli altri. Tu sei il capo, ma certo. Un grande potere implica una grande responsabilità. Che palle! Ma cosa ho detto? Che è scattato il parolacciometro? Qui c'è il bug! Ma che bug? Hai detto palle! Palle. Allora, quando si gioca a biliardo. Boccette, cosa succede? Sono le biglie. I parolacciometri che vanno in tilt. Non sono le palle, sono le biglie. Allora, il giochino di Renzi col bambino Alberto, come vedi, capo, non funziona perché lui si distrae, perde il filo. Siete voi che mi interrompete continuamente. Io la mia proposta l'ho già fatta, no? Vai avanti. Ne volete un'altra? Certo, dai. Ti ve ne dico un'altra, no? Allora, divisione completa tra bambini maschi e bambine femmine. Ma perché? Ma come perché? Ma lo chiedete anche? Ma cosa vuol dire? Almeno stiamo più tranquilli, no? Ma chi? Siamo più tranquilli noi maschi e più tranquille loro le femminucce, no? Perché? Perché noi maschi odiamo le femminucce. Certo, bambino Alberto, però è un odio transitorio, perché poi io te lo posso assicurare, a un certo punto le bambine ti piaceranno veramente tanto, Ma sta bravo. E poi, bambino Alberto, dal punto di vista dello sviluppo personale di un individuo è importante. Maschi e femmine devono crescere insieme, se no si torna ai tempi di mio nonno, quando era tutto separato, no? Cos'è che mi chiedete di fare? Mi dite di esprimere le mie idee per il miglioramento dell'asilo e poi ogni proposta che faccio non va bene. Ma è il duro destino dei bambini, voi non siete mai presi sul serio, però poi crescete e vedrete che poi non cambia niente. Allegria! Sai chi sono il capo dell'asilo? Io sono il capo dell'asilo! Tu sei, perché nel momento in cui questo è facile anche per te, io sono il capo dell'asilo, tu sei il vice capo dell'asilo. Io sono il vice capo dell'asilo e tu sei il capo dell'asilo. Cosa stai facendo? Questa è la canzone del Milan. L'inno del Milan. Perché così, equalizzato male, fa così. Allora, è un problema che tocca tutti noi. Che cosa potremmo fare se per caso ci eleggessero presidenti del Milan, che è un sinonimo di presidenti del Consiglio? Dire che cosa vorreste fare, fareste se foste presidenti del Milan. Ditecelo al numero 02 46 52 44 95. Tanto non chiama nessuno perché il telefono mi sa che è morto.